Quando siamo arrivati noi, il guasto era chiuso da anni. C'era un'associazione che era nata da pochissimo ci fu segnalato che era nata un'associazione che si chiamava l'Associazione Giardino del Guasto, quindi ci venne detto che sicuramente potevamo entrare nel giardino. Era un luogo non vissuto, rimaneva sempre l'anima meravigliosa che Filippini era riuscito a dare quando con i bambini creò questo spazio, però chiaramente c'era stato un altro utilizzo, essendo abbandonato, per cui è inutile dirti che la prima volta che entrò Milena dentro il giardino le vasche erano una piantagione di siringhe. E quindi c'era una grossa fragilità sull'utilizzo del giardino. Per cui noi nel 2000, quando siamo arrivate e abbiamo fatto questo evento della città che tintinna, il serpente per scaramanzia aveva una bellissima lingua fatta di peperoncini enorme, quindi all'entrata del guasto avevamo messo un temporale, quindi la scopa, cercala là in fondo. Chiedi la Paolina. E c'era all'entrata, per entrare al giardino del guasto dovevi superare un temporale, quindi entravi e avevi questo temporale che partiva. Poi incontravi una sedia lupo che se poco poco ti sedevi cominciava a ululare come una matta. E niente, per cui però la cosa che io pensai che era importante era quella di portarci le persone, no? Per riportare in questo giardino. Ma chi soprattutto? Io mi interessava riportarci i bambini, perché il progetto di chi aveva pensato questo giardino era un progetto che era nato per l'infanzia. La reazione dei bambini quando entrarono la prima volta in questo giardino fu quella della videro l'acqua, fu immediata, si buttarono nell'acqua vestiti, per cui i genitori non potettero uscire qui prima di che i vestiti di questi bambini si asciugassero, c'era il serpente che era pieno di vestiti. Quindi c'è una generazione che adesso ha quanti anni ha? Avranno 23 anni i primi bambini che sono venuti all'interno di questo giardino. E il giardino del guasto per me è un'oasi, cioè, e lo era negli anni 70 e continua ad esserlo. Chi lo vive con benessere. Allora, che sia il tossico, che sia lo studente, che sia il turista che passa tra queste dune, la cosa che ti viene è quella della sosta, quello di fermarti, non ti respinge. Quindi è uno spazio di accoglienza. Mario è andato con un dromedario. Perché? È successo. Io amo la piazza con i ragazzi seduti per terra, mi mette gioia. Io quando passo l'attraverso e vedo i ragazzi che sono in circolo, che chiacchierano, che parlano, che si bevono la loro birra, però nella serenità mi dà una sensazione proprio di appartenenza, dico, cioè il fatto di vivere una piazza così, senza infrastrutture o qualcosa che la riempi. Di che cosa lo arricchirei? Ma lo arricchirei di servizi. Cioè io ci metterei dei punti, non so dove far la pipì non è un problema, no? E poi per il resto io ci abito pure, non lo cambierei, cioè mi sento bene in questo, mi piace la ricchezza di volti giovani che quotidianamente incontro e forse qualche panchina in più, sì, qualche panchina in più ce la metterei, perché credo nelle panchine come le cose più democratiche che uno possa possedere in una città. Perché a me capita di fermarmi a parlare con questi ragazzi che sono buttati sulle panchine E mi rendo conto che fra di loro ci sono delle persone che avrebbero veramente molto da esprimere e da dare, però non c'è un luogo che possa accogliere e confluire tutte queste energie positive che poi si traducono in negatività e in abbandono. Non so, quello che mi viene da dire è quello che riconosco al guasto, che il guasto è uno spazio generoso.